Buonasera a tutti da Drago DJ e benvenuti alla nona puntata di Uptown Rockers. Prima puntata dell'anno, quindi auguro a tutti un felice anno nuovo e spero che abbiate trascorso un buon finale di anno. E questa, come al solito, è Uptown Rockers sulle frequenze di Railroad Radio Station, sullo streaming ogni mercoledì dalle 22 in poi e in replica la domenica alle 21. Ma partiamo subito con questa prima puntata del 2011. Vi farò sentire un pezzo d'annata veramente cool. Sto parlando dei Dinosaur L, uno dei molteplici progetti di Mr. Arthur Russell, di cui ho appena letto la splendida biografia scritta dal giornalista Tim Lawrence. Un libro che mi ha fatto ripercorrere con la mente quegli affascinanti momenti della controcultura di San Francisco, ma anche mi ha rifatto vivere le atmosfere di quei mitici locali del downtown newyorkese, e sto parlando del Loft, del Gallery, del Paradise Garage. Ma andiamo subito a sentire questa splendida canzone dal titolo Go Bang e remixata per l'occasione da un'altra pietra miliare della disco funk newyorkese. Sto parlando di Walter Gibbons. Thank you. Questi erano i Dinosaurel, gruppo di Arthur Russell, remixati per l'occasione da Walter Gibbons, pezzo datato 1982, preso direttamente dal vinile per l'etichetta dello stesso Arthur Russell, la mitica Sleeping Bag. E inoltre questo pezzo era stato registrato ai Frank Ford Wayne Studios di New York City e mixato niente po' di meno che da François Kevorkian. Arthur Russell, ahimè, che ci ha lasciato per una grave malattia nel 1992, ma che ha lasciato una vasta discografia, visto che lui proprio era un grandissimo compositore. Ma passiamo ad altro, questa è una puntata speciale, non solo perché è la prima puntata dell'anno, ma anche perché ci avviciniamo all'Epifania. Domani infatti è la festa della Befana e non so perché, ma quando si parla di Befana mi viene sempre in mente Fatboy Slim. Difatti il prossimo pezzo che andiamo a sentire è la mitica Praise You, datata 1997 e tratta dal singolone di Mr. Norman Cook. A voi Fatboy Slim, Praise You. Thank you. Fatboy Slim, Praise You, pezzo atipico per il produttore di Brighton che ci ha abituati ai bassi sinuosi del big beat. Questo pezzo è edito dalla mitica Skint, datato, ripeto, 1997. Ma è stato un po' il caso, ora vi racconto un piccolo aneddoto, che mi ha fatto scoprire il pezzo originale da cui è tratto, da cui è tratta la canzone Praise You di Fatboy Slim. E sto parlando di Camille Yarborough, la vocalist di Chicago, che aveva scritto le origini il pezzo Take You Prize, datato 1975, uscito ufficialmente per la Vanguard e qui ripescato dalla mitica Soul Jazz. E con un mio carissimo amico DJ Apart, mentre ascoltavamo un po' di dischi, abbiamo trovato questa magnifica canzone. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime la splendida voce di Camille Yarborough, pezzo ripescato dalla grandiosa Soul Jazz dal suo catalogo nel doppio vinile, secondo volume della compilation denominata Fly Girls. Ma ritorniamo un po' ai giorni nostri, un disco dell'anno scorso, anzi di 2 anni fa ormai, perché è datato 2009. E sto parlando del duo Smooth & Tarrell. Smooth & Tarrell sono i fautori della nuova scena, tra i fautori della nuova scena New Soul, anzi direi New Northern Soul, perché mi sa che hanno un trascorso parecchio modernism. Comunque il pezzo in questione è Baggerman, ma qui rieditato dai francesi Crazy P, produttori dal suono auseggiante, che qui ne fanno uno dei pezzi più ballabili della scorsa stagione, un pezzo che ho utilizzato nei miei DJ set durante i party, veramente un pezzo che fa muovere il sedere. E Crazy P, che tra l'altro ricordo mi ha fatto conoscere un altro produttore DJ pisano che voglio salutare e che si chiama Andrea Olivieri. Ecco a voi Smooth & Tarrell, Baggerman, Crazy P Remix. Owen Tarrell, The Baggermans. Ma andiamo veloci con la musica, senza togliere spazio alla prossima canzone. E questa è sempre Uptown Rockers, direttamente dalla Linin City, sullo streaming di Railroad Radio Station. E Drago DJ alla voce, e prossimo pezzo è la mitica Rock the House. Sempre mitica, sì, è sempre mitici. Questa è la versione redatta con i campioni di James Brown dal mitico Danny Crivitt, qui con il suo bootleg Mr. K. Ecco a voi Rock the House. Sure. We'll be right back. Rock the House, i rarissimi bootleg di Mr. Danny Krivit, qui taggati Mr. K. Ma prima di rilassarci con le ultime due song, un'altra tune per scatenarci in pista. E andiamo nel suolo italico con Francesco De Bellis e Mario Pierro. Questi erano i Jolly Music, pezzo datato 2001. E questo purtroppo è una domanda. Qual c'è le tue preferenze? Guarda, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica di. We'll be right back. still have the two or three Irish to more celebrate the festival. Right, because you have to have well, let me ask you some of your parents. With Love Jolly Music, tra i produttori di spicco della fertile scena romana. Adesso tranquillizziamoci un po' e andiamo ad ascoltare il sound morbido e cool di Roots Manuva, il rapper inglese che esce per la Big Dada succursale della Ninja Tune. Questo è tratto dal suo ultimo disco datato 2008. Il pezzo si intitola Buff Nuff, è una combination fra ritmi hip hop e reggae. Ecco a voi Roots Manuva. Hey honey, you're pretty like money. It's equal on for the hunger. Go check my mommy and if she like you, so we have a hype. Take you on a ride and I'm a car and I'm a bike. You got that something there, you got me glutton here. Needy, needy for you, greedy, greedy for you. Peely, peely for you, I'm also weenie for you. Get peely, peely for you, get needy, needy for you. I tell you I'm enough, you are the buff stuff. You buff enough, you buff enough. I tell you I'm enough. Girl, I want to show you a little bass and my brush and girl. Puffing and puffing girl, reaching for the reason for the. I see your booty and I swear that it is meaning for you. Whiny, whiny for you, hypnotize me for you. Energize me for you, supersize me for you. For real I will adore you, you know I'm ready for you. Side way, front way, I'll keep it steady for you. I tell you I'm enough, you are the buff stuff. You buff enough, you buff enough. I tell you I'm enough. I know I shouldn't do this, I know you're not that foolish. You make me lose my goodness. It's evident in I'm a craving nature. Love you like cooked food, I want to roast and bake ya. Please baby, please let me squeeze and taste ya. I'll let you drop first, I'll never overtake ya. Whitey, whitey, brokey, brokey, I've been big time. All that we leave is just some grease and big slime. I tell you I'm enough, you are the buff stuff. You buff enough, you buff enough. I tell you I'm enough. Nuff, Roots Manuva, tratto dal suo ultimo LP Slime and Reason. Questo era il penultimo pezzo e siamo arrivati alla conclusione, cari amici, ora ci salutiamo. Ricordatevi che dopo questa trasmissione andrà in onda il mixato da me fatto, mixato fatto apposta per questo fine 2010 inizio 2011. E prossimo pezzo, una chicca, veramente una chicca, Nightmare on Walks con il pezzo Now My Name, una song qui remixata per l'occasione da Mark Pritchard. Usciva nel 2002 per l'etichetta inglese di Sheffield, la mitica Warp. Per questa sera è tutto, ci vediamo come sempre ogni mercoledì alle ore 22, in replica domenica alle 21, e da domenica prossima potete trovare in podcast la nostra trasmissione. Questa era Uptown Rockers, io sono Drago DJ e da Red Road Radio Station è tutto, alla prossima puntata. Know My Name, Nightmare on Walks. Bring it to